giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il Natisone nuovamente ingrossato ostacola le ricerche del 25enne Christian Molnar, inghiottito dal fiume venerdì pomeriggio, assieme a Patrizia Cormoche e Bianca Doros, i cui corpi privi di vita sono stati rinvenuti ieri a circa 700 metri dal ponte romano. Sabato e domenica si vota anche per il rinnovo di 114 comuni in Friuli Venezia Giulia. Le elezioni amministrative riguardano circa 300.000 elettori, cioè un quarto della popolazione regionale. Nel comune di San Durligo, sul quale insistono i serbatoi di greggio della TAL, sono state installate le centraline dell'ARPA che monitoreranno la qualità dell'aria, in particolare i livelli di benzene. L'industria friulana nei primi tre mesi dell'anno rallentata dal calo della domanda interna che viene compensata però dall'export. L'associazione udinese Zio Pino è campione d'Italia di baschini, basket inclusivo, il titolo tricolore a Lucca nella finale contro i cremonesi. Intanto a Basovizza sul campo del Zaria è in corso la festa dello sport in parallelo con oltre 70 partecipanti. A Lignano, tappa conclusiva del trofeo di canottaggio Filippi, vincitori messinesi, ma ottimi risultati di categoria anche per gli atleti regionali. Nuovamente buongiorno da Dario Ronzoni e Nada Choc. Il Natisone ingrossato e reso torbido dalle piogge delle ultime ore stanno rendendo difficili le operazioni di ricerca del disperso Christian Molnar, il 25enne romeno che venerdì si era recato assieme a Patrizia Cormoche e Bianca Doros sul greto del fiume a Premariacco sotto il ponte romano. I tre sono stati travolti dalla piena improvvisa del fiume torrentizio. Il Natisone è di nuovo torbido dopo le ultime piogge, livello e portata sono tornati a sabato sera, condizioni che rendono meno agevoli le ricerche dell'ultimo disperso Christian Molnar di 25 anni e nel pomeriggio i modelli danno un livello del fiume in innalzamento di circa 50 centimetri nello scenario peggiore come conseguenza dei nuovi temporali previsti, ma seppur con cautela le attività di ricerca proseguono con personale a terra, sull'acqua, in elicottero con l'ausilio anche dei droni. Nella giornata di domenica, complice l'abbassamento dell'acqua, sono stati trovati i corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros di 20 e 23 anni. Erano sull'argine, invaso dalla vegetazione, in posizioni diverse, ma non molto lontano da quel ponte romano sotto cui sono scomparse, mentre i soccorritori tentavano un disperato salvataggio, lì dove qualcuno ha portato fiori e un lumino in segno di pietà. Le ricerche sono concentrate ancora molto in quella zona, quella che arriva fino al ponte Leproso, circa 2-3 km più a sud, ma non si tralascia nemmeno il tratto più verso Manzano, dove c'è uno sbarramento di un impianto idroelettrico. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sabato e domenica si vota per le europee, ma anche per il rinnovo di 114 comuni del Friuli Venezia Giulia. 114 comuni, quasi 300.000 abitanti, un quarto della popolazione della regione, sabato e domenica sceglie il suo sindaco o sindaca e la sua nuova amministrazione. Nessun comune sopra i 15.000 abitanti e quindi in ogni caso nessun ballottaggio. Rimane di pochissimo sotto il valore soglia Porcia, dove la sfida è comunque a due, tra Marco Sartini, uscente, sostenuto del centrodestra compatto, e Mario Bianchini con la lista del PD e due civiche. In diversi altri grossi comuni, invece, il centrodestra va diviso. Accade a Pasean di Prato, dove l'uscente Andrea Pozzo, con Fratelli d'Italia, Forza Italia e due civiche, se la vede non solo con Enzo Cattaruzzi, sostenuto dal PD e da due liste civiche, ma anche con Giulia Peressini, schierata dalla Lega con tre liste civiche. E accade a Grado, dove si fronteggiano Roberto Marin, con Forza Italia, la Lega e una lista civica, e Giovanni Bredeon, espresso da Fratelli d'Italia e sostenuto da due civiche. Cercherà di approfittarne Giuseppe Corbat, con tre civiche senza simboli di partito. Anche più complessa la situazione a Campoformido, dove la sindaca uscente Erika Furlani ha il sostegno della Lega e di due liste civiche. Il suo sfidante è Massimiliano Petri, con quattro liste civiche senza simboli e con esponenti che provengono da diverse esperienze politiche, centrodestra compreso. Il centrosinistra punta a difendere le due roccaforti di Staranzano e Gradisca di Sonzo. A Staranzano, Mario Fragiacomo, con il PD e tre civiche, se la vede con Giuliano Venudo, che ha con sé i quattro partiti del centrodestra e una lista civica, e con la lista civica di Luciana Soldà. A Gradisca di Sonzo sfida a tre tra Alessandro Pagotto con il PD, Rifondazione Comunista e 5 Stelle e due civiche, Beniamino Ursic con il centrodestra unito e le quattro civiche del centrista Claudio Verdimonti. Il centrodestra unito difende il comune a Pozzuolo, a Manzano e a Rivignano Teor contro le sfide di candidati civici senza simboli di partito. Sfida a due anche a Sesto alla Reghena, dove Marco Lucchin si pone in continuità con l'amministrazione precedente, centrista, e raccoglie la sfida di Zaida Franceschetti. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel comune di Sant'Orligo, in particolare nelle località di Mattonaia, Lacottisce e Domio, che convivono con i depositi del greggio della Sioti, il problema degli odori sgradevoli, soprattutto nelle giornate quando l'aria è stagnante, è annoso. Il dialogo tra le amministrazioni comunali che si sono succedute in questi anni e la TAL non ha portato a una soluzione definitiva del problema. Oggi però l'ARPA ha installato delle centraline per il monitoraggio della presenza di benzene e altri inquinanti. Una stazione mobile dell'ARPA è stata installata questa mattina a Sant'Orligo della Valle, Mattonaia, a 300 metri dall'impianto produttivo della Siot che stocca greggio petrolifero, per analizzare la concentrazione nell'aria di composti organici volatili, tra cui il benzene. La stazione rimarrà fissa un anno e trasmetterà in modo continuo agli uffici di ARPA i dati rilevati. Siamo con Edi Baiutti della struttura qualità dell'aria di ARPA. Perché è stata installata ora? La struttura è stata installata ora perché, a compendio delle misure sulle molestie olfattive effettuate nel passato, si è pensato di completare il quadro conoscitivo andando a monitorare i composti organici volatili, che sono associabili per lo più alla molecola benzene, l'unica per cui è previsto un limite di legge, e le altre, fra cui gli xileni, le etilbenzene, che sono ascrivibili ad attività che utilizzano i combustibili fossili. Le persone lamentano un odore di fatto. Sì, questo odore è stato appunto lamentato in più occasioni, e una delle molecole che andremo anche a cercare in questa campagna è l'acido solfidrico. Questa molecola è presente all'interno dei carburanti e diverse volte può essere associata appunto a una molestia di tipo olfattiva legata appunto allo zolfo in essa contenuta. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Il caso di Eluana Englaro, la Corte dei Conti ha condannato in appello l'ex DG della Sanità della Lombardia, Carlo Lucchina, a pagare all'erario circa 175.000 euro che la Regione Lombardia aveva dovuto risarcire a Beppino Englaro, che era stato costretto a trasferire la figlia Eluana in una struttura sanitaria a Udine, dove morì il 9 febbraio del 2009 a 39 anni, 17 dei quali in stato vegetativo dopo un gravissimo incidente stradale. Nel 2008 il padre di Eluana, Beppino, si era visto negare la possibilità di interrompere l'alimentazione artificiale che teneva in vita sua figlia dal DG della Sanità della Lombardia, Lucchina, nonostante nel 2007 la Cassazione avesse stabilito che ciascun individuo può rifiutare le cure alle quali è sottoposto se le ritiene insostenibili e degradanti. Su questa base, nel 2008 la Corte d'Appello di Milano aveva autorizzato l'interruzione del trattamento quando Beppino Englaro, in qualità di tutore, chiese la sospensione dell'alimentazione per la figlia. Il DG Lucchina firmò una nota in cui specificava che i sanitari che avessero sospesa l'alimentazione sarebbero venuti meno ai loro obblighi professionali. Englaro si rivolse al TAR, che accolse la sua richiesta, ma la Regione Lombardia non diede corso alla sentenza, quindi Eluana fu trasferita alla quiete di Udine. Il rallentamento della domanda interna frena la performance dell'industria del primo trimestre in provincia di Udine. L'export continua invece a salire, è quanto emerge dall'ultima indagine dell'ufficio studi di Confindustria Udine. A frenare l'andamento della manifattura in provincia di Udine nei primi tre mesi dell'anno la decisa flessione delle vendite in Italia, calate del 6,7%, il raffreddamento della domanda interna ha rallentato la produzione industriale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, calata dell'1,2%, confronto all'ultimo trimestre 2023 è invece aumentata del 2,9%, una crescita moderata dovuta all'export che continua a tenere e registra un aumento di oltre un punto percentuale, e quanto emerge dall'indagine indagine dell'ufficio studi di Confindustria Udine su un campione rappresentativo di imprese associate. Segnali positivi provengono anche dall'utilizzo degli impianti produttivi, passato dal 79% del quarto trimestre 23 all'80% del primo trimestre 24. Nelle attese delle imprese l'88% ritiene che la produzione nei prossimi mesi resterà stabile, il 10% prevede un miglioramento contro il 2% che invece prospetta una contrazione. Guardando ai singoli comparti vanno bene carta, chimica, gomma plastica e seppure con segnali contrastanti anche siderurgia, meccanica e legno arredo, in calo alimentari e materiali da costruzione. Tra gli elementi di incertezza pesa uno scenario internazionale ancora instabile, il rialzo dei costi delle spedizioni a causa della crisi del canale di Suez e di alcune materie prime dal rame al grano, oltre che del gas. Il petrolio resta stabile, sta arginando la ripresa dell'inflazione che in provincia di Udine intanto ha rallentato la sua corsa. Dal 7,8% di aprile 23 è scesa allo 0,7% di aprile 24 e a pesare anche la carenza di manodopera, con la forbice tra profili professionali richiesti e quelli disponibili che si sta drammaticamente allargando, osserva il vicepresidente vicario di Confindustria Udine Piero Petrucco, richiamando l'importanza per la manifattura avanzata di continuare a innovare e investire. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Università di Trieste ha aperto le immatricolazioni per il prossimo anno accademico. A disposizione dei futuri iscritti un'offerta formativa ampia, 43 lauree triennali a ciclo unico, oltre a 37 magistrali. Novità per l'anno accademico, il corso di primo livello in dietistica in attesa di accreditamento ministeriale che sarà attivato nella sede di Pordenone. Il corso abilita lo svolgimento della professione di dietista, i posti disponibili sono 30 e prevedono il superamento del test nazionale per le professioni sanitarie. Il 1 luglio saranno presentati ufficialmente anche i corsi di laurea magistrale in ingegneria della transizione energetica e delle politiche europee di digitalizzazione, due assolute novità rispettivamente a livello internazionale e nazionale. Tutte le informazioni sul sito dell'Ateneo, che organizza durante l'estate visite guidate al campus curate dagli studenti tutor dei corsi. Le patologie del nervo periferico sono al centro dei lavori del congresso nazionale organizzato a Trieste dalla clinica di neurologia, che è impegnata nella diagnostica, nel trattamento e nello sviluppo di network di ricerca nazionali e internazionali. Le patologie del nervo sono considerate patologie rare, ma in realtà affliggono in varia misura molte persone, variano dalla lesione di un singolo nervo per intrappolamento o trauma a patologie sistemiche del nervo periferico, come quelle osservate dopo infezioni virali, le cosiddette malattie autoimmuni o le neuropatie metaboliche da connettiviti o da diabete. Durante il convegno sono emersi importanti novità nella diagnostica e nel trattamento, soprattutto nelle neuropatie genetiche, con innovazioni terapeutiche in differenti ambiti. Incontri per le famiglie che vivono la disabilità. Stasera la prima delle tre serate organizzate dall'Associazione La Luna di Casarsa della Delizia, con tema La famiglia di fronte alla diagnosi, metamorfosi e traiettorie evolutive. Il tema della famiglia è ormai centrale, parlando di disabilità, ha spiegato Erika Biasutti, direttrice della Luna, soprattutto nei progetti che portano le persone alla vita indipendente. L'iniziativa è inserita all'interno del progetto a misura di famiglia, sostenuto dal bando Welfare 2023 di Fondazione Friuli. L'incontro inizia alle 18.30 negli spazi di La Luna in via Runcis e sarà condotto da Orietta Sponchiado, psicologa e psicoterapeuta. E adesso diamo uno sguardo al tempo, con il cielo da nuvoloso coperto su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 18 gradi, con mare quasi calmo, con temperatura di 21 gradi e 5 decimi. A Gorizia 19, a Udine e a Pordenone 17 gradi e mezzo. A Tolmezzo 14 gradi e 5 decimi, a Treviso 14, Forni di Sopra 10 gradi e mezzo, Piancavallo 9 gradi e 5 decimi. Sul Monte Zoccolan 7, a Lignano 19 gradi e 5 decimi, a Grado 19 gradi, con temperatura del mare di 21 gradi. Le previsioni: nel pomeriggio cielo variabile o nuvoloso, saranno possibili debole piogge sparse, locali rovesci o qualche isolato temporale, più probabile nelle zone interne. Subito dopo il lockdown, in parecchi hanno scelto di cambiare modo di vivere lasciando il proprio lavoro, un fenomeno che nel nord-est è stato più evidente nei settori del commercio al dettaglio, sanità e turismo. La sociologa Francesca Coin ha studiato il fenomeno e ha pubblicato il libro Le grandi dimissioni, il rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita. Era ospite a Buongiorno Regione. A molti le dimissioni di massa sembravano una sorta di moda passeggera, un po' un esaurimento collettivo, un esaurimento nervoso collettivo. Il vecchio detto apro un ciringhito, mollo tutto, eccetera. Questa è una banalizzazione di un fenomeno che in realtà è più serio? Ma io direi di sì, nel senso che se noi guardiamo la tendenza storica delle dimissioni volontarie, queste sono sempre più acute nei periodi di crisi. È vero anche che c'è un cambiamento nell'organizzazione del lavoro che ne ha deteriorato fortemente le condizioni ed è una cosa che le persone sentono profondamente. Sino a una generazione due fa uno stipendio in famiglia bastava a mantenere un nucleo familiare di quattro persone. Ora molto spesso appunto il lavoro è sottopagato, impoverito, a cottimo, ma contemporaneamente le richieste si sono fatte più gravose. Questo fa sì che in molti casi sia difficile anche per chi ha bisogno appunto di tenersi stretto un posto di lavoro, sia difficile resistere. Continuiamo a raccogliere le lamentele dei datori di lavoro del turismo che non trovano camerieri o gente per gli alberghi, eccetera. Cosa si può rispondere a questa categoria? Alzate i salari, mettete il personale in regola. E lavoriamo un po' sulle condizioni di lavoro, perché il lavoro nel turismo, nella ristorazione, nell'accoglienza è il lavoro meno pagato in Italia. Ha notato differenze di genere? Dunque, in generale a livello nazionale sono di più, lievemente di più, gli uomini che si dimettono, anche perché spesso sentono di potersi ricollocare più facilmente nel mercato del lavoro. Tuttavia, se guardiamo ai genitori con figli in età da 0 ai 3, allora sono molte di più le donne che si dimettono. Il differenziale salariale di donne e uomini fanno sì che il lavoro delle donne sia considerato sacrificabile. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Un edificio che racconta il passato del Carso, conservando le forme tipiche dell'architettura dell'area, è il Museo della Casa Carsica nel comune di Repene, dove un mese fa è stato anche inaugurato il Museo del Carso, in un edificio che mantiene le stesse caratteristiche. Nel servizio la voce di Edi Kraus, presidente della cooperativa Carso Nostro. Una storia di tradizioni, arti, usanze del passato, ma anche una storia di architetture dimenticate, abbandonate per un desiderio di vita migliore, è quella che racconta il Museo della Casa Carsica a Monrupino, il comune più piccolo della ex provincia di Trieste. Una casa di una volta fatta in pietra, risale al XIX secolo, sopravvissuta ai cambiamenti e agli abbattimenti degli anni del boom economico. È stata poi trasformata in museo dai soci della cooperativa Carso Nostro, che l'hanno recuperata alla fine degli anni 60. Hanno individuato questa casa, che era in uno stato abbastanza buono, doveva essere un po' ristrutturata, però il tetto, ad esempio, che è il fiore all'occhiello di questa casa dal punto di vista architettonico, era in condizioni ancora perfette. Proprio il tetto è uno degli elementi caratteristici, è sorretto da una struttura di travi in legno, incastrate tra loro e unite con chiodi in legno. La grande ricchezza sono queste lastre di pietra carsica, una volta si trovavano in natura e venivano sistemate una sopra l'altra, facendo sì che il tetto è autoportante. Oggi la Casa Carsica è visitata soprattutto dalle scuole, ma è anche al centro delle cerimonie delle nozze carsiche, una ricostruzione dei rituali contadini di una volta, nata insieme al museo. Di solito si celebrano ogni due anni, ma dipende se ci sono coppie che intendono sposarsi e sono una festa della comunità, con la cerimonia in chiesa e poi, proprio nella Casa Carsica, la consegna della sposa allo sposo, tutto con abiti tradizionali. La cantina Produttori Ramuscello e San Vito di Sesto Arregana sta festeggiando per aver ricevuto la prima certificazione regionale del residuo minimo nel vino. Rodolfo Rizzi, enologo e direttore della cantina Produttori Ramuscello e San Vito. Che cosa significa ottenere la certificazione del residuo minimo nel vino? Ma questo è un lavoro che dura già da diversi anni, con una sensibilizzazione da parte del nostro gruppo di agronomi verso i soci per la riduzione di tutti i prodotti che servono alla difesa della vite. e quindi è stato un lavoro lungo e impegnativo che ci ha portato a dichiarare con una certificazione che ci viene rilasciata dall'ente certificatore che è CEVICU, con una dichiarazione che abbiamo il residuo sotto del 90% rispetto ai termini di legge. Quindi è un risultato eccezionale che però ci fa portare verso la ricerca del residuo zero. Significa che si usano pochissimi fitofarmaci, diciamo, in vigna? Allora, si usano un quantitativo di fitofarmaci inferiore per difendere la vite dagli attacchi delle malattie fusine che sono la peronospora e l'oidio. Questo significa anche un vantaggio ovviamente per il mercato, un mercato che è un po' diviso, quello del vino, no? In questi giorni a Verona c'è la rassegna dei vini in anfora e dall'altra parte abbiamo visto che a Vinitaly era molto forte anche l'interesse per i vini dealcolati. In quale direzione sta andando questo mercato? È sicuramente un mercato un po' in subbuglio per una serie di motivi legati soprattutto a cambiamenti generazionali, cambiamenti di abitudini e anche una parte del discorso salutistico. C'è una ricerca però della qualità del prodotto e di fare un po' di chiarezza nel mondo del vino. Una fascia di questo segmento sicuramente negli anni a venire sarà anche occupato dai dealcolati, vini a zero contenuto di alcol, che non saranno certamente quelli che verranno prodotti dalla nostra regione, che è una nicchia nella produzione nazionale. E a proposito di vino, l'Università delle Libertà del Friuli Venezia Giulia propone un nuovo corso dal titolo Vino e dintorni a cura della sommelier Rosa Prisciandaro, che illustrerà in 4 lezioni le basi della vinificazione con cenni sulla viticoltura convenzionale, biologica, biodinamica e sugli abbinamenti cibo-vino. Il primo incontro alle 18.30 a Udine in via Napoli 4. E siamo al basket inclusivo. L'associazione udinese Zio Pino è campione d'Italia di Baskin. La squadra allenata da Alberto Andrioli ha vinto il titolo ai campionati di Lucca dopo una finale all'ultimo canestro contro Cremona che si è conclusa a 97-93. Una gioia incredibile per tutti i componenti della squadra che si allena nella palestra del Bearzi e che ha intrapreso il percorso dell'inclusività 5 anni fa. È stata un'esperienza straordinaria. A Lucca eravamo in 40 tra giocatori e accompagnatori, alla fine avevamo tutti le lacrime agli occhi, ha confidato Alberto Andriola. A Basovizza, al centro sportivo Zaria, è in corso con 70 partecipanti la seconda edizione della Festa dello Sport in Parallelo, manifestazione dedicata allo sport integrato patrocinata dalla Regione e organizzata dalla SD Zaria e assieme al Centro Educazione Speciale Trieste, Trieste Atletica e Compagnia Arcieri Trieste. La giornata prevede una serie di stage tra calcio, atletica, tiro con l'arco, difesa personale, hockey su prato, parkour e football americano, con la possibilità per tutti di cimentarsi in ognuna di queste specialità. E a Lignano Sabbiadore è andato in scena nel weekend la terza tappa del trofeo Filippi, che ha completato il circuito iniziato a Mondello e Fano. A conquistare il trofeo messo in palio dal cantiere Lido Filippi è stata la canottieri Pellerolo di Messina, che negli ultimi anni si sta specializzando sempre più in questa nuova disciplina che unisce la corsa sulla spiaggia alla barca, con la quale va percorso uno slalom e un rettilineo di 250 metri, oltre 170 le prove disputate sulla spiaggia di Lignano. Ottima prestazione per i canottieri del Saturnia di Trieste, che hanno conquistato la medaglia d'oro nel 4 senior mix. Gustavo Ferrio, Maria Elena Zerboni, il timoniere Filippo Wiesenfeld, vice campioni del mondo in carica, rinforzati dagli azzurri Sofia Secoli del Saturnia e Leonardo Tedoldi del gruppo sportivo Fiamme Gialle. Tra gli under 19, exploit di Lorenzo Cicuttin dei canottieri Lignano, new entry nel mondo della beach sprint, che ieri ha vinto il trofeo di categoria. Un trofeo che ha coinvolto anche le società regionali Canottieri Timavo, Trieste, Polisportiva San Marco e Canoa San Giorgio. A Spilimbergo si chiude il Festival delle Giornate della Luce dedicato agli autori della fotografia. Finalista per il premio Il Quarzo di Spilimbergo è Davide Leone, che ha diretto la fotografia del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Il film sarà proiettato al cinema Benoît de Cecco di Codroipo alle 21.